po' che non suonavo il sassofono. Ma stavamo ascoltando della musica rock. Ma come ti viene in mente? Harry James, eh? Harry James mi piace molto. It's been a long, long time. Sentite che orchestra, pazzesca. Senti le risposte. L'orchestra di Harry James per Luana. Cominciamo con le dediche oggi. Ciao Luana. Lo so che sei in ascolto. Restiamo insieme all'orchestra di Harry James. Ah. Yeah. La presentazione dovrebbe essere Welcome to the Battle of the Blue Orchestra, Harry James. No? Così. Thank you. Pensate a... alla bellezza di poter ballare un brano del genere col vestito giusto, con la partner giusta. Ma se la partner non è quella giusta, che facciamo? Ma di sicuro cambiamo musica! Avete ascoltato la Jack Parnell Big Band Swing. Di un musicista che amiamo particolarmente, che si chiama Count Basie. Qualcuno mi chiede al 3791-880-880, ma secondo te c'è della musica che sia adatta al momento prima di un bacio? Eh? Dico certo che c'è, assolutamente esiste, e si chiama Prelude to a Kiss. Niente da dire, è come se stesse guardando la scena mentre suona. Il preludio a un bacio. Dopodiché è meglio cominciare a riprendere le distanze. Peraltro, per scrutarsi meglio, per vedere se ci si è sbagliati, se... E poi c'è un grande che suona il sassofono. Charlie Parker. Con la sua orchestra. My Little Swedish Shoes. Thank you. Ho comprato ultimamente un disco di un certo Woody Herman, o Herman che dir si voglia. Beh, io trovo che questo sia un modo molto interessante di comprare dischi. La big band come suono mi piace molto, anche quando non è stereo. Anche perché, insomma, è una cosa complessa, no? Suonare tutti insieme così bene. E le orchestre di Woody Herman hanno qualcosa in più. Sì, Count Basie, Duke Ellington, assolutamente. Ma Woody Herman riesce sempre così a entrarmi nel cuore. Sentite questa. No, è un'orchestra pazzesca, stupenda. Anche... Sì, infatti, sentite che roba. Una big band. Yeah! Mm-hmm. Digital Network. Provate pure a cercare altre stazioni che mandino in onda in questo istante, che potrebbe essere qualsiasi momento della notte o del giorno, ma ora siamo in diretta, ma poi non saremo più in diretta, saremo in un podcast, e quindi il podcast potrete sentirvelo dove volete, quando volete, come volete. Ma comunque dovreste fare il giro del mondo per trovare qualcosa di simile. Ed è molto probabile che la troviate, ma non è così sicuro che dietro ci sia qualcuno che ve la porga. Yeah! Beh, questo modo di suonare la tromba Thank you. Il fascino discreto della big band, questo era un suono un po' dizzy, no? Un suono della tromba. Ci sono anche dei trombettisti che cantano spesso e volentieri, e questo è uno di quelli. Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hoe, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. I hope, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Insieme a Chet Baker, che è il musicista che abbiamo sentito cantare in questo momento, c'era sempre un altro musicista che soffiava su uno strumento un po' più grande. Thank you. Jerry Mulligan col suo sassofono baritono. E questo è sempre Woody Herman, siamo in giro per le orchestre. Stavo cercando una cosa piuttosto interessante, perché chiaramente intorno alle orchestre ci sono anche stati dei grandi cantanti. Prima abbiamo sentito un trombettista cantare, cioè Chet Baker. Ma qualche volta mi è capitato di sentire anche una certa Billie Holiday cantare con l'orchestra. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa escursione attraverso le orchestre e le musiche. Dunque, volevo farvi sentire di Billie Holiday con l'orchestra un brano che si chiama Did I Remember? Diciamo, ho voluto presentarla io prima, spezzandola con un pezzo di musica, perché diciamo che il sound cambia un po'. È sempre l'orchestra registrata, però essendo un 78 giri di qualche tempo fa, chiaramente il suono è molto più sporco e quindi magari non volevo che si sentisse tanto la differenza. Do per scontato che chi mi ascolta sappia chi è e chi è stata Billie Holiday, ma mi rendo conto anche che questo è un paese talmente ridotto all'ignoranza che probabilmente andrebbe fatto un programma in cui si parla e si conosce e si dice, ma per ora godiamoci la musica. Alla ricostruzione ci penseremo poi. Ammesso che ci si arrivi. You were in my arms, and that was all. Ascoltando Billie Holiday mi è venuto in mente un altro musicista, lo avrete sentito in sottofondo che lo stavo preparando, è un certo Louis Prima, che mi fece conoscere addirittura mio zio quando era vivo ed era anche lui un appassionato di jazz mentre io cominciavo alle prime armi, quindi mi faceva delle cassette facendomi ascoltare dei personaggi. Uno di quelli era appunto questo Louis Prima. Insieme a una cantante che si chiama Keely Smith. Old black magic has me in a spell. Old black magic that you weave so well. Those classica voce up and down my spine. Alla Caterina Valente, no? Same old witchcraft when your eyes meet mine. Same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go. Round and around I go. Like a leaf caught in a tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Flame, friend of desire. That only your kiss put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love. Oh, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love. That old black magic. Aveva un nome questo tipo di sound, sentite che batterista, wild, cool and swing. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love. Ah, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love. Spin, love the spin, ten. Beh. Che personaggi straordinari. Louis Prima, Keely Smith. Bene, cominciamo a discostarci da questo sound leggermente con un grande capolavoro. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay Valentine's Day. Il grandissimo trombettista Chet Baker con My Funny Valentine, un suo cavallo di battaglia, si sarebbe detto un tempo. E ora del blues. Del blues? Prima era blues e adesso è blues. Bobby Blue Band. I pity the fool. I say I pity the fool. Well, I pity the fool, yeah. I said I pity the fool. That falls in love with you and expect you to be true. Oh, I pity the fool. I know you're wondering what they're doing. They're just standing there watching you make a fool of me. Look at the people. I know you're wondering what they're doing. They're just standing there watching you make a fool. I pity the fool that falls in love with you. Oh, I pity the fool. I pity the fool that falls in love with you. She'll break your heart one day, and then she'll laugh and walk away. Oh, I pity the fool. People, I know you're wondering what they're doing. They're just standing there watching you make a fool of me. Look at the people. I know you're wondering what they're doing. Yes, they're standing there watching you make a fool of me. Il titolo l'ha detto lui, I Pity the Fool, Bobby Blue Bland, Bobby Bland, blu perché questo 45 giri aveva questo colore. E adesso un gruppetto che si chiama Small Faces. Small Faces. Vorrei cambiare la stanza del nonno con Elisabetta II d'Inghilterra, che ne pensate? Potrebbe essere un titolo particolare. Oh, volevo dirvi una cosa. Avete mai sentito gli Who? Dico no, sì, ho capito, avete sentito gli Who. Ma gli Who suonare così, per esempio? Siamo intorno agli anni 60, 65. Happy Jack. He lived in the sand at the island. Kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in the furry donkey. Kids come now, Jack, they drive, drive, drive. They drop things on his back, they land, land, land, land, land. They couldn't stop Jack. Stop Jack or the water's lapping. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. Jack, they drive, drive, drive. They drop things on his back. Line, line, line, line, line. They couldn't stop Jack, all the water. Dopo gli Small Faces. And they couldn't prevent Jack. The Who. Happy. E adesso anche un ragazzo che ogni volta che lo ascolto mi sorprende sempre. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be Elvis Presley. Baby, well, I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think of so. I'll be so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, I'll make it die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely they could die. Scusate, per qualche secondo vi ho tolto l'audio e non me ne sono completamente accorto. Dunque, qui siamo addirittura d'arrivo. Tra poco arriva un programma molto interessante. Play a guitar just like a ring in a bell. Go, go! superstition. Writings on the wall. Very superstitious. Ladder's about to fall. Yeah. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck. The good things in your past. Yeah. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstitions in the way. Very superstitious. Wash your face and hands. Rid me of a problem. My song. When you believe in things that you don't understand, and you suffer, superstitions in the way. tutti un abbraccio da Edith. Would it be the same? Grazie per l'ascolto. If I saw you in heaven and carry on, cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you? Eric Clapton, un musicista strepitoso, che più invecchia, più diventa straordinario, più ci lascia dei regali stupendi. Me lo concedete un ultimo brano? Sì? Ok. Questo. Thank you. At the dark that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong, you and me, at the dark end. Time's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong. Steal away to the dark end. Thank you. corpo poi si martella 06555 1.